Bob Marley and Sun in Shining. È pomeriggio presto e vogliamo partire riscaldandoci, andando per fasi. Così partiamo con un po' di foundation. Da Bob Marley passiamo al grandissimo Gregory Isaac. This is Mr. Cop. Listen that. Mr. Cop, cool down. Hear me when I say, cool down your temper. Mr. Cop, cool down. Put a smile on your face while passing through. Some fun, oh, and it's better than in the streets bashing guns. Tell him, Mister, tell him, cool down your temper, Mister Cop. Ooh wee, cool down. We're just licking a cup acid. Cool down your temper, Mister Cop. Say we are just sipping a cup. Yo yo, questo era Gregory Isaac con Mr. Cop. Ora vogliamo passare un'altra big tune. Questo è Dennis Brown, So Ja Say. Ma prima voglio introdurre questo artista, perché pochi giorni fa è stato il suo compleanno. Ora vedremo appunto una delle sue biggest tune. Questa è So Ja Say. Dennis Brown è stato uno dei principali cantanti della Giamaica, appunto è stato il principe di quella che è la reggae music in Giamaica, e questo nome gli è stato proprio dato da Bob Marley stesso. Insieme a lui si svilupperanno tantissimi altri artisti, come appunto Gregory Isaac stesso, Peter Tosh e molti altri pionieri di quella che è la musica reggae. Ora voglio presentarvi una delle sue appunto big tune, questa è So Ja Say. Soldier said, don't let him down. Don't let him down, let him down. Cause if I do, I'm gonna wipe to pay. If I do, I'm gonna wipe to pay. Soldier said, don't let him down. Don't let him down, let him down. Soldier said. Soldier said, don't let Yo yo, questa era Soja 6 di Dennis Brown. Ma prima di tutto voglio, prima di entrare nel vero e proprio punto forte di quella che è la radio, voglio blessare il posto, voglio fare un big up a tutta l'organizzazione, a tutta la gente che sostiene questa radio e tutta la gente che condivide con noi questa bella musica, condivide con noi queste vibrazioni straight from Jah. Come principale persona voglio ringraziare appunto Fayapon Babylon e soprattutto Mardox Eletta, che da un anno, se non pure di più, mi sta addosso e mi fa, diciamo, da maestro su quella che è appunto la musica reggae. Voglio ringraziarlo proponendo questa sua tune. This is Mardox version Selecta, Killing Killing feat. Mighty Diamond. Listen. Invece questo è Don Carlos, one of the biggest tune. Yow. Oh yeah, give thanks to you, Mr. Sun on it all. Yo. E dopo Don Carlos siamo di nuovo a ripresentare quello che è uno degli artisti più conosciuti in Giamaica. Questo è Gregory Isaac. Gregory Isaac, o anche chiamato Cole Ruler o Lonely Lover, è uno dei cantanti più importanti e ancora riconosciuti della Giamaica. Tra i suoi miliardi di tracce possiamo trovare una discografia davvero immensa che va tra gli anni 70 e gli anni 80, dove vedremo che appunto intorno agli anni 80 pubblicherà questa che è... Night North. Per chi non la riconoscesse, questa è Night North. Gregory Isaac. Quando ride. Yow. Can I try your best, yes, you make it quick. Come and into the city, my darling. Some bacon seed. Said she wanna be my secretary. She never passed her GC, no. But she said she wanna work for me. Is that the reason why? DJ Warbo. Hulka like a fire. Hulka like a fire. Another time, Dennis Brown. E un'altra volta, passando da Dennis Brown a un altro artista conosciutissimo che è John Holt, e di lui conoscerete soprattutto una tune che è questa. Com'è che fa? Voglio vedere un po' di fuoco. Yes boss, yes boss, yes boss, yes boss. police in helicopter. What search? I search for marijuana. Why? Policemen in the streets searching for cali weed. Soldiers in the field burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb field burning the cali weed. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets searching for cali weed. Policemen in the field burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana. You don't trouble your corn. We don't trouble your pimento. We don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. E passiamo da John Holt a uno degli artisti hip hop più conosciuti in Italia, che da Bologna si è spostato praticamente tutte le parti d'Italia per mostrare la sua musica e mostrare quello che era veramente. Questa è una rivisita della rhythm che abbiamo appena ascoltato di Ika Mouse. E ora andiamo ad ascoltare quello che è uno dei pionieri dell'hip hop italiano. Questo è proprio DJ Graff con il suo Lusugu Te Lucalzone. Listen. Lo giubbotto, lo sugo te lo calzone, e moi sta cerco lo prodotto, gullo lau alla perfezione. Tocca gullo lau, tocca gullo lau, tocca gullo lau, gullo lau. Perché alla fine, quale Salento Connection sarebbe senza nessuna Salento Chun? Te lo ridico di nuovo, questo è DJ Graff. Caspacca. Ma giù l'urdato lo giubbotto, lo sugo te lo calzone, e moi sta cerco lo prodotto, lo lao alla perfezione. Tocca gullo lao, tocca gullo lao, tocca gullo lao, gullo lao. Tocca gululao, tocca gululao, tocca gululao, gululao. Meccio de in cialo negozio, cignunco parlo con notizio. Ci sunt tu offerte promozioni, ci sunt tu scorte de profumazioni. Tocca gululao, tocca gululao, tocca gululao, gululao. Tocca gululao, tocca gululao, tocca gululao, gululao. E da DJ Graff passiamo a i veri pionieri del ragamuffin salentino, coloro che sono riusciti a mixare, diciamo, quella che è la taranta con il ragamuffin della Giamaica. E questi sono i Sud Sound System. In questo caso sentiamo Niente Armi. Listen. Non posso più insopportare questo cannone. Stanno a fare Tu vai dove vuoi della sua. Cosa dice lo Stato? Dice proibito sparare, ma non è costruire le armi. Lo Stato sa che face se fotte li sordi e quelle tangenta se continua a baciannare. Intorno a noi acqua. Dice proibito sparare, ma non è costruire le armi. Lo Stato sa che face se fotte li sordi. Assuba ste cose se non guadagnane tutti. E niente chi è quello che continuano a fare. Far del male alla gente quando si può parlare. Parlando di vite, dando coraggio a chi continua a lottare. Dando valore a natura e cultura che a quello tempo si stanno per dire. A causa di ciò è la scienza che continua a creare armi inutili che all'uso portano solo la distruzione. L'unico scopo è governare ignorando il rispetto di chi sta a morire, senza capire il vero valore di sopravvivere nel lottare. Cerchiamo che usiamo la cavolo cuore eliminando l'armi che fanno soffrire sofferenze inutili che se può evitare, senza spendere tanto denaro che a fin dei conti si può utilizzare. Hanno scopo del bene creativo sociale. Moi dice proibito sparare, ma non è costruire le armi. Lo Stato sa che face se fotte li sordi. Assomma ste cose non si guadagnano tutti. Manda qua i cari della Babilonia, una di oppressione, questa qua è la realtà. Non è che non mi serve, io vivo la mia vita. Non c'è soldo che paghi la mia tranquillità. Contro ogni tipo di violenza, che chi usa l'agno, chi usa la scienza. Penso che la mia caro non vede ignoranza. Uso la musica per dare speranza. E speranza, ma ne va, non ne di dare a tanta gente che sta a soffrire. Che l'acqua e lo pane non si può negare. Ferite che del vicino non come te capace. Poi dice proibito sparare, ma le mine continuano a buttare. Poi c'è gente qua, non può camminare. Intime di una guerra che vede normale. Intorno a moia qua. Dice proibito sparare, ma non è costruire le armi. Lo Stato sa che face se butte li sordi. E quelle tangenta se continua a baciannare. Ci sono armi per fare del male, dicono pace. Ma quale pace se invece dolore dopo una scaggia l'ugino dei voce. Profeta io con coscienza, vergogna per chi non pensa. Guarda lo bene e lo male, vince lo bene. Se lo male lascia, come c'è una fondo di violenza. Fate ogni giorno, queste cose che io cerco sempre con un lespunno. In quella mano le sento, e pur sai se le sento. Che belle parole, per me non te non è valore. Poi allora se io faccio capire, qui tu faccia succedere. Per la terra dello salento, faccio maggiore stanno a morire. E allora, passiamo da Niente Armi a Pash Ponce e Calabrino, un'altra big tune di quelli che sono i pionieri del Salento, di Sud Sound System. E allora senti questa, se non l'hai ancora riconosciuta, è proprio lei, Te Fumano. Bueno, sine Te Fumano, Te Fumano. State attento. Testa cerco le parole giuste, fuori la tensione a mille, la pressione cresce. Moi s'ha fatta l'ora copienza, ci deli frati, tu e faci male. Se senti un gangster originale, poncini copienza, lu perché, ma di tempo non ce n'è. Non finisce la partita, lo sapevi già da prima, lu dominio. Te porta chiano chiano e piezo per piezza lu sciominio. E tocca che uccidi, poi tocca che spari, per un amico doi tete. 4-5, sta senti, ma quella faccia poi nascondila da tutti quanti. Niente più valore senza le pistole. E spara qua e spara dai, ma con punti la pistola, mucca qua che d'uno. Non vuoi con la faccia nessuno, allora non teme scare. Dico non teme scare. Cabe mie, l'amici veri, sono tu qui di cago, qui ste non se mi scare. State cinto che parlo io, sono tu l'ubo, sono tu numero uno. Quella legge sbirri e predi, non è non sono tu nessuno. Inutile che me ragioni e camme, mini fiumi de parole, ragione ne degno. Una dei fierre, solo una fiera la puoi sentire. Mina aperta a tempo, ma il tempo io già può fermare. Cagate tutta quando mi idi, però puoi non puzzare. Tegni una rigi, ce li tirano sulla cocaina, aria buona. Mentre la merda, la inno li tossici, nude persona. Tegni un esercito e vagnano i buoni, non me sporco mai le mani. Da su con punto solo i milioni, che mi dà di ui, onesti cubuni, e me la spasso. Bionde brune, Mercedes russe, tutti sono passo. Solo più forte, ricco e potente, solo più resto, mi tegno cialesto. Non me stesso e non me piego, e tutti mi hanno rispettare. Cagate tutta quando mi idi, petti assunto, lo compare. Quasi qualche duca e per paura no, per amore che te ritene non bueno. Guagnone col masto aperto no, ogni valore umano costretti in cialughetto senza la cosa concreta a mano. Chiaro mio, state attento che te fumano. Bueno, si vede fumano, non ha capito, peggio mio. guai, te dice no fu noi, io contro te noi. E prima c'è lo Stato, che te ho omologato con tutte le leggi soi. Le tangentasse, che se non le paghi su vai, e quando li dai ti sordi ma puliti chiui, e su cazzi doi. E c'è la comparanza, de prepotenza, con laurea e leggi soi. E uguale non c'è differenza, solo la chiesa tiene più potenza di tutti e doi. Te fruttano, con la paura che tieni l'animo eterno dopo che morirai. Ali guai, né con uno né con l'auro, chiaro. Meglio solo che male accompagnato, ci non capisci perché uno rimane pigliato. Indifferenza è causa degli mali de ocean. L'aiuto e la risposta e ci non te ne usce. E poi fingi che non mi ridi e ti confondi. Vedo tutti sti sguardi in cui te pierdi. Continui a fingi e mi costringi con sto chiuso in c'è una gabbia senza una porta. La tua sta aperta, mi facci fuori con un timbro sulla carta. Ma ti non guardi, continui a fingi e mi costringi. Happiness for more poor people. Yow. More food for each and everyone. Love and harmony, that will say each and every time I beg you. Tell you about it. L'indifferenza è causa degli mali de oggi. No one no kind of hero. L'aiuto e la risposta. Perci non te ne usce. Stai aspettando quel giorno che qualcuno si accorga di te, si accorga di la tua voce insieme alle altre. Sai, sarà ancora più forte. Arrivo. Bene, cacciola, è mondo, guardiamo una mano, guardiamo un aiuto, guardiamo sostegno, ci tenebbe segno, se ne mentimo tutti quanti insieme d'impegno. Con combattimo, mi gioca l'egoismo. Cancete voce in questo mondo. C'è solidarietà, se vecchia umanità. La gente non usa più la bontà. Non riesce con l'idea del valore. A qui gioca se fare con l'ugore. We got to show some love for the youth. In the ghetto as I would say. Regardless of them race, them color or them class and creed. Yes, we are the same. Yes, I would say. Show some love and more. Accendino. Rocking with the eternal vibes. Reggae music sounds sweet and nice. When the people skank to the beat, everybody just feel alright. Rocking with the eternal vibes. Reggae music sounds sweet and nice. When the people skank to the beat, everybody just feel alright. So put your hands then up the top then. Bob Marley say one love make me both well. Equal rights and we beat and touch it. Suit sound system, Italian of reggae down me. Reggae help fulfill no poor man dream. Every man a king and every woman is a queen. No matter if you're old or you're in or you're teen, it's time to find out what reggae music mean. So we need more love on the dancehall scene. Turn up the fire like car high beam. Suit sound a place for me a fi driving. Come be ready for sweat and destroy me hygiene. Rocking with the eternal vibes. Reggae music so sweet and nice. When the people skank to the beat, everybody just feel alright. Rocking with eternal vibes. Reggae music so sweet and nice. When the people skank to the beat, everybody just feel alright. Guarda quanta gente sta balla, ed è qui sta la vibrazione più bella. Unisce a tutti quanti, segnali oppure usanti, non importa citi e sinti, se porti sentimenti positivi. Immensa come un lumare, dolce vibrazione che la può liberare. La provi ogni fiata che senti suonare, e il suono dello passo che ti face ballare. Come from the beautiful island Jamaica, preschool vibes, traditional culture. You don't know this one is for the young and the elder. Everybody dance with the original fever. Rocking with the eternal vibes. Hey. Reggae music so sweet and nice. When the people scan to the beat, everybody just heal alright. Rocking with the eternal vibes. Reggae music so sweet and nice. When the people scan to the beat, everybody just feel alright. Hey, batte forte fisso caldo regolare proprio come qui tu gallo battito de core. E beppe qui stucate illuminate in tue e scarfa tutto quanto come un ora giù de sole. Oh, semplice speciale in modo naturale in tra tutti quanti face ballare. Dando sempre lo piacere di sentire la forza interiore. Sì, e qui sto noio sempre in una ricca ed è come una carizza che l'anima mia tocca. Chi già me libera, me libera, me libera, ed è come lo viento che all'aria me ne porta. Sorgerà calda come il sole, porterà calore e tutti ci unirà. Si aprirà come sfocia un fiore, canta il suo colore e tutti canterà. Yeah. Rocking with the eternal vibes, reggae music so sweet and nice. When the people scan to the beat, everybody just heal alright. Yo yo, questo era Eternal Vibes from Suzan System featuring Anthony B. Ora ne proponiamo un'altra, sempre di Anthony B. Ma prima vorrei anche argomentare un po', non solamente proporre Jun, perché siamo bravi tutti a fare questo. Vorrei parlare un po' di Anthony B. Anthony B è stato uno dei più noti portavoce della cultura afroamericana e tra i più apprezzati artisti sulla scena reggae giamaicana e mondiale. Insieme a lui sono cresciuti moltissimi altri artisti come appunto Sizzla, Capleton, eccetera eccetera, ma ne vedremo parecchi che si aggiungeranno al suo, diciamo, alla sua scuola così definita. Ora vengo a proporvi una nuova tune. Questa si chiama Territory, è uscita circa 2 anni fa, nel 2019 se non erro, ed è proprio questa. Watch how you are run from Jamaican, Jamaican. Watch how you are play around Jamaican. Hey Babylon, boy, me na me. Kingston, Jamaica, me. East side, west side. Dancehall and clover, me. Nah left the thing for me side. Babylon, come and put me in a handcuff. Say them don't like the marijuana me a puff. Never know the rasta ragamuffin. I'm in now mixed with certain stuff. What? Imagine, see don't a whole of wise by me corner. Babylon come and lock me up for marijuana. As far as the man me got no. Proveniente dal disco Life Over Death. This is Anthony fucking B. Territory, east side, west side. Dance all and club on me. Now left the thing on me side. Watch how you are run from Jamaican. You know how long them a map out the base. Before they make the arrest, them map out the case. Babylon, tell me, take out your lace. Boy, what kind of gun that a drop out your waist? Born Jamaican, have no fee use head. Hustler, juggler, born and bred. Now nah, hit the street without we steal our lead. We no love sleep, it's too near to the dinner we. Kingston, Jamaica, we. East side, west side. Dance all and clover, we. Now left the thing power side. Well, you know. E da Anthony B passiamo ad un altro big artist. Questo è proprio General Libby. Listen, remember the rules. Come now, stick a ding, stick a ding, stick a ding, stick a ding, dang, dig a ding, dang, stick a ding, dang, stick a ding, stick a ding, stick a ding, stick a ding, dang, dig a ding, dang, stick a ding, dang, stick a ding, stick a ding, stick a ding, stick a ding, dang, dig a ding, dang, stick a ding, dang, stick a ding, stick a ding, stick a ding, dig a ding, dang, dig a ding, dang. That's why we're gone down in our culture. Galang, galang, galang, galang, galang. That's how we're proud. Galang, galang, galang, galang, galang. That's to big up the culture. Galang, galang, galang, galang, galang. That's how we're proud. Galang, galang, galang. Remember the roots, remember your culture, and where you're coming from. Can't forget about the foundation. Remember the roots, remember your culture, and where you're coming from. Can't forget about the foundation. Tell the youths about Nanny, tell them about Buster, Paul Bogle, Sam Sharp and Marcus. We brother, Mary Seco, Malcolm X and Marcus. We brother, fight for the right for the poorer class, and they get us off a rod. That's why we're gone down in our culture. Galang, galang, galang, galang, galang. That's how we're proud. Galang, galang, galang, galang, galang. Got to big up with culture. Galang, galang, galang, galang, galang. That's how we're proud. Galang, galang. Cause every day is the same struggle to keep our head above the water level. Well, who feels it knows it. I guess that is true. Before you judge a man, walk a mile in our shoe. The situation is pure confusion. Accusations are pure allegations. Ora, da General Libby passiamo ad un altro artista. This is Elia Frost. Yes, no, no, con the Caribbean Rhythm. This is Peace of Ganja. I have to confess, I've been so bad at charging me. It's more fun, it's a ganja. You're like, I don't charge me. It's more distance, Emilia. I've been so bad at lock me up. It's more fun, it's a ganja. You're like, I don't charge me. It's more distance, Emilia. Yo, questa era Piece of Ganja from Caribbean Rhythm. This is Candyman, another tune. This is Candyman and this is Kill a Sound. Vi racconto un piccolo aneddoto. Una volta, girando così per SoundCloud, trovo una traccia, una sorta di remix, un qualcosa che mi dava inizialmente un ring di alarm e poi passava direttamente su questa tune. E io con Marduk, così parlando come abbiamo sempre fatto, ci siamo chiesti: ma che tune è questa? E così ci siamo accorti che era solamente una presa per il culo, davvero una presa per il culo, ed era stata modificata a loro piacimento, ma la vera tune era questa. Yo, sono adesso. Questa sarebbe buona per un duplet per killare chiunque si trovi davanti. My song kill a song guy by day. And crucify them by night. Pull up, my selector. Yo, song name of the song. Song dead tonight. Selector come a dance come Skylar. Come che fa? My song kill a song guy by day. And crucify them by night. On every dub plate we play, it's gonna be up full and bright. And if it's all night, we're gonna kill a sound all night. This your sound kill them all night. We kill a sound guy all night. Working in the dance hall, killing sound guys. Working in the dance hall, yeah, killing sound guys. From PM, kill them all night. Oh well, hey, sound guy, you're gonna lose this clash. You're not the luckiest sound under the sun. If you make me move, then you know you've got to go. We kill them all night. We're gonna kill a song all night. I this your sound, kill them all night. We kill a song by all night. Questa è una delle rhythm, dei ritmi più conosciuti e più tagliati, direi, di tutta la storia della Giamaica. Ma qual è la prima tune che vi viene ascoltando questo ritmo, questa rhythm? Qual è il primo artista? Beh, a me viene in mente lui. This is Johnny Orton. Pull up your hands. If you love her, then you fashion and slimy. There is a posse in the corner, all of them just a ball of murder. But let me hear you say, whoa, whoa, yeah, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah, whoa, yeah. Oh, questo era Johnny Osbourne. E un'altra che mi viene in mente è T-Pyre. Listen this. Well, we're gonna bring the slang thing DJ Warhol. Now me say tip up on the slang thing, you know me ready, yo. Tip up on the slang thing, you know I ready, yo. Yes, up on the slang thing, you know me ready, yo. Tip up on the slang thing, you know me ready, yo. The pride of it, and pride of it, and pride of it, and pride of it, and pride of it, and no pride of it, and pride of it, and pride of it, and pride of it, and pride of it, and pride of it, and pride of it, and pride of it, and yeah. Come che fa? Tip a high. So hear it now live and direct. And me say, we said the same thing in the Danbury. The Danbury from back in the 80. But people, you know, a 2010. The Japanese bring it back again. Wheel out. Questa era Slang Tang Rhythm, song by Tipa Air. Ora siamo qui per presentarvi un'altra big tune. This is Sister Kinky, a.k.a. Francisca, one of the most Italian girl artist. This is Sensimilia, one of my favorite Francisca's song. This is... Lively up the consciousness. Lively up the consciousness. Lively up the consciousness. Yow. Sensimilia. On the dance floor, on the dance floor. Touch the floor. Reggae music make us feel alright. On the dance floor, on the dance floor. Sister, say I wanna jam until the end of time. And every moment, every day, I use my weed and feel okay. Cause Bobby music teaches how to take advantage of the natural mystic way. Sister, air my eyes, the dance. The top, the golly, them a smoking ganja plant. Give me the rhythm, give me the version, give me the laugh, then burn it open. Pop the volume, positive vibes, positive thoughts. I say fall in a dance hall. I wanna dance with you, my mom. Feel your hand on my belly, it's so fun. On the dance floor, on the dance floor. Feel the vibes, reggae music make us feel alright. On the dance floor, on the dance floor. Touch it now, reggae music until the end of time. On the dance floor, on the dance floor. Sister says, reggae music make us feel alright. On the dance floor, on the dance floor. Touch the floor. Select. This Queen Africa with To Serve and Protect. Batman police, everybody I keep down with the Un accendino in aria. Fatti sentire. Government and police, civilian and police, taxi man and police, everyone and police somewhere. Who make you read so far is a while now. I know spot a squad in a lana bar. Police have to run from police. What is this pound police? We don't know about the thing bizarre. Right now the force needs CPR. It look like a wound, they are gonna leave us scar. Officer, you can't throw a blessing a fire. Cause the people are gonna ball and go in the tire. Then the church have to go kneel and go in a prayer. When the people are rebel and are send them a suffer. A criminal elements alone I love the law. So why are the majority I call a murderer? Me think we need for hurry up and solve the puzzle, yeah. Remember our duty is the first of all the law. No matter how it rough you have to think before you try. When the people them know it, you then the criminal applaud. So no kick off me do when you come in on me yard. Me know the thing rough, me know it tough, me know it hard. We know say them the youth, them no have no discipline. But police brutality is just a better sin. I really hope you listening. Something wrong cause everybody balling. Yeah, the and police, soldier and police, the H.U. and police. Yo yo, volete sapere perché ho scelto proprio questo orario? Perché in questo ora e mezza di vibrazioni, di opinioni, di musica, di divertimento, di mezzo c'è un momento preciso che è proprio il momento del 4:20. Ovvero in questo momento sono le 4:20 e da ora in poi per i prossimi format, ogni volta che uscirà questo orario, quindi 4:20, io proporrò una canzone a tema guida. In questo caso la prima che mi è capitata davanti è stata proprio Ghetto Eden, una canzone chiamata Ete sulla una chianta, uscita da poco tramite il Calavita Mixtape 7. Flavio Ghetto Eden, ragazzo di Lecce, assai produttivo, che dopo questo Calamita Mixtape ha già lavorato ad un altro album chiamato Sud Reale, in uscita pochi giorni fa, andatevelo subito ad ascoltare, e sta già lavorando a quello che è il Calamita Mixtape 8. Ora però vi faccio sentire questa, Ete sul una chianta, listen. Calamita Mixtape. È solo una chianta. Ete sul una chianta. Capisci? È solo una chianta. Calamita Mixtape volume 7. È solo una chianta. Passa lo tempo ancora, se proibisce, sciano inguagliato, sai che se stupisce. Per questi tioni per una canna alla casa mi demolisce. Ni dico non tengo niente, ma non vuole capisce. Insegna l'interrogatorio muto come uno visce. Manettato alla seccia la tensione me cresce. Una domanda non fa con una scaffa se andesse classici. Tipica fanno sto tipo di promesse. Ti poi decido di chiata, caio te faccio uscire. Ma c'è sta, dice non me lassi stare. Ah, non me dice molto di cuccia fare. Fanne c'è voi, poi babesse già fuori. Una chionta tanto ha detto Tutankhamon. La stazza raggia compare, ma non casa ancora se proibisce da assurdo. No, pur questi che governano la sanno mica solo io. Che tengo chianto. pianta, avete solo una pianta, avete solo una pianta, è solo una pianta, avete una pianta, avete solo una pianta, avete una pianta, è solo una pianta, avete solo una pianta, avete una pianta, avete solo una pianta, avete solo una pianta, è solo una pianta, solo una pianta, avete solo una pianta, avete una pianta, capago de ferma, non merda, tu porta in casa, ma venna canna d'erba, decessa del roccia manetta, sa ciume dai retta, compare ma aspetta, stop di oppressia, tieni l'assaggia, poruga non cangia, c'è solo la raggia, se parla de ganja, ti dici mannaggia, quando uno te blocca, l'andore lo sciocca. Lenta bella sta mescira, muto lontano, per cielo posto dove vivo è muto strano. Penna canna d'erba, oppressione, fuma marijuana, stu bagnone, le sigarette fanno male, l'alcol puro non te scerrare. La marijuana face bene, l'anima in Italia è illegale, è molti anni. E te tengo chianta, è solo una chianta, è solo una chianta, è solo una chianta, una chianta, è solo una chianta, una chianta, è solo una chianta, è solo una chianta, una chianta, è solo una chianta, è solo una chianta, è solo una chianta, una chianta, è solo una chianta, è solo una chianta. Se male se fumo c'è a fare, ma tu mentre io mi senti l'andore, incia la macchina sul motore, o c'è fumo guida fatta sopra lo balcone. Fumano tutti ma stressano a noi, fumano il dice beh non la sai, assurdo compare ma la situazione qui sta de modo che non cangia mai. Figlio non si ma qui gioca a me piace, lo visco così come se te lo figlio, lo taglio, lo pindo così, cago così, dopo non poco fumo lo meglio, mi rilasso devi in seca dormo no, fanno il naura compare ma come no. Una ragazzone che risveglia, una ragazza che ho depressa, fumo erba ed è solo una chianta, oh. È una chianta, è solo una chianta, è solo una chianta, è solo una chianta, è una chianta, è solo una chianta, è solo una chianta, è solo una chianta, è solo una chianta, è una chianta, è solo una chianta, è solo una chianta. Yo yo, e allora passiamo da Flavio Ghetto Eden, preceduto da Queen Africa e Sister Kinky a.k.a. Francisca. Stavamo appunto parlando di quelli che sono tutte le artiste ragazze, o meglio le artiste donne, in quello che è appunto il mondo del reggae. In questo caso ne proponiamo un'altra, che a differenza di Francisca, a differenza di Queen Africa, è molto più giovane e si sta già facendo conoscere. Come già avrete capito di chi sto parlando, questa è Coffee con uno dei suoi brani più conosciuti. This is Toast. So we are coming in with a force, yeah. Blessings we are reaping, we coursing on full. Oh, when I rise, I'm toast, toast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Come on, Kefa. Blessings all for my life and my thank God for the journey, the earnings are just for the bless, yeah. And gratitude is a must, yeah. The blessings fall by my right hand. But a toast for the friends that take off every load. One time did sit down in a class and we pour it. Only set the road and me born with the road. Third form, me say, make me try a thing. And you know it formed up to be a fire thing. Now up on stage with chronic, say a sing. Yeah, see me all digging soon, get the higher ring. Like hello, brother, me say, at the shutter. Saw your poster, spec that in a photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter pass through your shutter. Can't bad in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah. Me see blessings for all the horizon. But I toast to the friends when they call for me load. One time they sit down in a class and we pour then only set the road. And me go on with it, go on with it. That's how our blessings upon me. And send me if you tell them a story. That's how our blessings upon me. And that's how I mean to give him the door. We have realize it. Jano say my passion ignite it. Got the music get me excited. Coming like a boat. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah. Me say blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends we take off every load. One time did sit down in a class and we bought then only said the road and me go on with the road. Da Coffi passiamo ad un'altra big artist, sempre ragazza. Yo, yeah. Russian. Usually I'm indecisive. Yeah. But tonight, make sure, sure. And baby, you know me way past idea. Me love a little more, more. Give me a little more. Want a little more, give me a little more, more. Bend it up back way, doing it that way. Pulling my driveway, give me that sideway. Bend on my highway, if you don't bite it, know that I like it. I can get freaky. I'm sure, sure. And baby, you know me way past like it. Know me like it. Me love a little more, more. Give me a little more, give me a little more, give me a little more, more. No, la, la, la, la, la, la, la. Me want you send it up, bust it up. Later, me we man it up. Me foot up, me cock it up, just like a tenny top. Fuck sweet like money, can't get enough. Cause me pussy tight, tight. And me know that you like. Love you when you stamina long like China flight. Then tell me open like a door. Be up tonight, my sure. Usually I'm in this side. Oh, this one, the questa è uno dei ritmi insieme allo Slang Tang, sicuramente molto più giovane, ma uno dei più conosciuti. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you only say I don't know what. Come che fa? Murder she wrote, real, real. Murder she wrote, murder she wrote. Sulla Bam Bam Rhythm. Ascolta questo. Know with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Send girl, you're pretty. Your face is pretty, but your character dirty. Tell you just a hot do. Flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry. Sorry, sorry. Good now. Have a cozy kind of when she jokes and when she jam. Yo. She know about Lou. Her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, you would say I don't know what I know. Murder she wrote, real, real. Murder she wrote, murder she wrote. Na na na. Murder she wrote. But you know, stand still. You're not paying me like bill. If you're testing rock and muffin, then you're going to get killed. Girl, keep quick. Cause you are crepe, crepe. And the lyrics of me talk and it with each you girl come out. Ora passiamo ad un altro remix. Questo è Mega Bantam Pandy Rhythm. Bam Bam Rhythm. Big up every girl, listen, we big up every don. Big up every garrison and anywhere you're from. Big up the real youths, them we woulda never. But we woulda prefer take a shot more than feel it down with a man. Big up every hustle, scam if you a scam. Every ghetto youth, we have a vision and a plan. All who no rate, we no rate them. We no run in, we no beg friend. Them know what's a we done, so what we say? More money, more gal. Act like you know when you see the general. Money pa gun, so if a pussy violate them, I find them a float in a ditch and canal. So when me do, the right by on a pedal. And when me tell you run, nobody think of female medal. Me do the war, hot and spicy. With the case, yeah, them and the ratchet, yeah, when we are the original. Yeah. So big up every girl, listen, we big up every girl. Big up every garrison and anywhere you're from. Big up the real youths, them we woulda never. But we woulda prefer take a shot more than feel it down with a man. Big up every hustler, scam if you a scam. Every ghetto youth, we have a vision and a plan. All who no rate, we no rate them. We no run in, we no bet friend. Yeah, man, that's how we turn. E questo era Mega Banton con Big Up. Ora passiamo ad un'altra biggest tune. Entriamo nella parte finale di quella che è la nostra ora e mezza di radio. Entriamo nella ultima mezz'ora e ora la dedichiamo proprio alla musica, appunto, più, come potrei definirla, allegra. Questa è la dancehall. Siamo partiti con il roots, siamo passati a quella che è un po', diciamo, le fondamenta di quello che è il Salento. Siamo passati al ragamuffin e ora ci manca solamente questo. Questo è Charlie Black con Tan Tudi. Farvi segnale su Instagram, su Telegram, ovunque. Tan Tudi big man, Tan Tudi. Tan Tudi pam big man body. Ulo, mai si letta. Charlie, un'altra volta, questo è Charlie Black. Angel, angel, angel, mi fate un angel, po' di casino. Angel, angel, tanto di big man, tanto di, tanto di pam big man body, tanto di big man, tanto di. You better make sure your pum pum no soli. Tanto di nigo man, tanto di. Hold the back as you see him, so you love it. tanto di nigo man, tanto di your breast to put them stiff from me already. She said whoa, engagement ring night, whoa, wedding ring I get the thing right, whoa. You should have hear she a sing, sir. She said she love me, me know she love me. Chucky, chucky, chucky, me a cookie will be maca. Every time me chucky, her pussy get fatter. Say she have a man, but I ain't cocky at her. No matter, me no blood clock matter. Tama she a pussy on the fire, she a bam. Mix with the green banana. Tanto di big woman, tanto di. Tanto di pam big man body. Tanto di big woman, tanto di. You better make sure your pum pum no study. Yeah. Tanto di big woman, tanto di. Hold the back as you see him so you love. Tanto di big woman, tanto di. Your breast to pull them stiff. Rub me your rubbish. She say, whoa. Hey girl, da Charlie Black, a conscience. Why this make you feel like though? Yo. Why this make you feel? Why this make you feel like bro? Why this make you feel? This like is conscience. Do. Broke off your back, girl. Yeah. Come wine to the broke off your back, broke off your back, broke off your broke off your broke off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your broke off your broke off your back. Girl, you know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your broke off your broke off your back, girl. Who you are ramp with on a game? Anytime you're ready, girl. Say me name. Please get wet like in a rain. Can I make you feel high like on a plane? She say I saw the love, did I? Baseline sweet and I touch the sky. Dancing, she love do that, girl. Coach the chat, come boy, till you broke off your back, broke off your back, broke off your broke off your broke off your back. If you broke off your back, broke off your back, broke off your broke off your broke off your back. Girl, you know you got the glue. Know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back, broke off your broke off your broke off your back, girl. Yo, DJ, you body hotter than a sun dance. You make me turn up at attention. You pretty like the melodies in a me song. You see, you know your body give you make your body shine. Yo, DJ, short with your deal. Tell him to put the next one and be ready. I line up the land, man. Ora passiamo da Conscience a The World Government. This is Vibes fucking Cartel. Drink some champagne, smoke some weed, don't judge me. E così la tocca piano il signor Cartel, per poi arrivare col fuoco. So let's live our lives. Starlights like R2D2. Pretty girl come through when I see you. Meet you at the gate or pre-soul. Real cool as a spade for the queen's view. It means you necessary any means no. Gucci shirt with my Cavalli jeans no. Brand new clocks, sneakers, sneak preview. We gon' party tonight. Drink some champagne, smoke some weed. Don't judge me, for one day we will die. So let's live our where the drinks gone, Aztec Maya, everything gone. Tell the bartender, bring the bar come. Quicker than an astride when the star come. Drinks everywhere now, and in the ear now. Like say me I go rob you, but me not rob you. We gon' party tonight. Drink some champagne, smoke some weed. Don't judge me, for one day we will die. So let's live. Un'altra volta, this is Vibes Cartel. Quando una canzone uscita circa 5 anni fa, this is Wine to the Top, ed è ancora una hit. Wine, yo pussy tight, bump a bit, breast no flat, come climb on the top, just like that. It's night out, push it in back. Girl, wine, Your pussy fat. Press no flat. pussy fat. With the conscience. Questo era Conscience con Turn Me On. Ora passiamo ad una biggest tune, perché in questa puntata non abbiamo assolutamente parlato di tre persone, anzi di un gruppo formato da tre persone. Questi sono gli War 21. E c'è una persona in particolare, chiamato Suku, se lo conoscete, che sulla Elastic Rhythm ha cacciato davvero una big tune. Ve la faccio immediatamente ascoltare. Yes. Yo. Watch that. Watch that. Full level. Voglio sentirvi cari perché questa è una vera big tune. Rimettiamo da capo. Yes. Watch that. Ne vale la pena. Full level. Infiammate la chat di Telegram. Yeah. Them come at this, I never know, send me no nice. Don't bust with platinum wrist, that's red, the finger full of ice. Them will want see me, they feel why you flicker and rejoice. But watch it, yo, me cover with the blood of Christ. Watch it, me kill them with the baritone vice. Me finger play the beat, they make you dance all night. Go from 0 to 100, get a high on life. Life. Life. Can't do me nothing, say them can't do me nothing, yo. Can't do me nothing, say them can't do me nothing, yo. Can't do me nothing, say them can't do me nothing, yo. Dopo Suku, c'è Cartel. Back up the S class, he ride the bike. Be a girl, I say me have a type of style. She like, have a split for me, can't find me like. Oh, yeah. My delight, Selassie no say Jamaica a paradise. You a just a money man want and we a fi nice. Pretty girl dash way, that a the choice. You no know, see the big bumper way in a jacket tight. Get a living cooler than happy ice. But in a the war with hot many Fahrenheit. Yeah. Device. Yeah, that's your say. Me a run for me happy life. Everybody want fame, tell Cali Nines. Every youth want to a killer and carry nines. Christians say repent and watch the times. And I say the money can't see if we are half a price. Gun contest, graveyard at the price. Bright light of a new coffin for your body size. Make me party, get gang happy vibes. No tribalism, listen to Selassie vibes. Eternal Father, bless our land. Guide us with your mighty right hand. Senti, Cartel. Keep us free from power and power. Oh, we are one, yeah, man. Jamaica, Jamaica land we love. Jamaica, Jamaica land we love. Jamaica, Jamaica land we love. Jamaica, Jamaica land we love. Take an ex bad man, go tell one other, go tell the one that. Yard man in the US and London. Stop send money, oh, you a big damn gang. The second verse, I get mad, man. You, Mr. Police, you need some sanction. I go for men response for your actions. So me not vote without satisfaction. Why you have to kill so many black man? Innocent, all the blinds, he said that wrong. MP, give me little more traction. Cops and ghetto is a fatal attraction. Ramping shop make you US come in. You're not ban poverty, but you are ban sound. When them get fit, they punch it down. I'm tell Cabal in group, and this is a ban sound. La Carta, Ali Ward, un attimo. Hotter than the day, and if you know, say man, no play. Pull up, Miss Selecta. This is for the girl. Problem. Per tutte quelle collegate alla radio. This is World 21 per DJ Glad, DJ Style. Yo. Hotter than the day and if you know say man a play. A Benz man drive, we no drive Chevrolet. Teams no normal, we have we own airway. House of elevator, we no use stairway. One dozen gala where we get per day. Slim or fat, we no care where them stay. Martinique, girl, them top the survey. Man clean from the block, with a kiss of rose. Say me no love, me no play with people. Every boy feel like same evil. He get a one out of the out of the eagle. He get a one out of the out of the eagle. Say me no love, me no play with people. Every boy feel like same evil. He get a one out of the out of the eagle. He get a one out of the out of the eagle. Pull up. Ora passiamo ad un'altra big tune per le ladies. This is Shaggy in combination with Kankara. Yeah! What a piece of dilemma! Jerebang, oh, Jerebang! The money seeds apply. Jerebang, bang! Come on, tell you why. Jerebang, bang! Jerebang, bang! Jerebang, bang! Girl from near and far, I request me banana. Yeah! Me a de gyal dem banana farmer. Do all of them a request me banana. Till I come and them no one go home. Give them one time, two time, them one more. Till I come and him no one go wrong. Give me three times, sometime them a phone. Till I come and him no one go wrong. We have a Latina girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So amiga recommend no my banana. Tranquil, yeah, mamacita, hasta mañana. Hasta me do it, hasta me do it, hasta me do it, hasta me do it. And girl I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them weak. Yeah, that's it. Girls from near and far and me quest me banana. Me and the girl them banana farmer. They will of them a request me banana. They like come and them no one go home. Give me one time, two time, them one more. They like come and them no one go home. Give me three times, sometime, them one four. They like come and them no one go home. Girl from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up the phone, I ask direction. Them want come chill for me plantation. Two girl from France, say them want share one of me say we. Me say we, me say we, me say we. Grab me banana, I tell me it's we. Them say we, them say we, them say we. Say la vie. Girls from near and far and request me banana. Me a the girl, them banana farmer. Do all of them a request me banana. They like come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. They like come and them no want go home. Give them it three times, sometime, them want four. They like come and them no want go home. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. They like come and them no want go home. Night and day, girl a ring off before. Some girl want keep it discreet. Them no want them man find out, them a do it. Yo yo, siamo nell'ultimo quarto d'ora. Parlando di dancehall, la prima persona che ci viene in testa è proprio Vibes Cartel. Per me è così, la prima persona che mi viene in testa è o Vibes Cartel o Mavado. Infatti la lotta è sempre quella, Gully Gaza, Gully Gaza. Voglio presentarvi una delle mie preferite canzoni, delle mie canzoni preferite davvero, che mi ha portato all'avvicinarmi a questa musica, sentendola così di sfuggita, perché prima di questo c'era solamente Alborosi, Sud Sound System, roba diciamo un pochino più commerciale, essendo un salentino nato. Beh, questa è Clarks, sulla Collab Rhythm, by Vibes Cartel and Popcan. Wagwan, Popcan. They are in a hot school, but tell me something. How will you get the new clocks, the daddy? I wish color that, daddy no party. Are you alone of the style, the daddy? The queen for England, I feel love of yardy. How will you get the new clocks, the daddy? I wish color that, daddy no party. Are you alone of the style, the daddy? The queen for England, I feel love of yardy. Real bad man, no muggle in a shot. Straight jeans, cut off foot pants. Everybody have the axe when me get my clocks. Everybody have the axe when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody have the axe when me get my clocks. Everybody have the axe when me get my clocks. Prepping up clocks, me prefer clocks for the leather, yeah, clocks with the fur. Clocks for the summer, clocks for the winter. Clocks for the sun, clocks for the water. Me know we're nautica, not a sailor. Pull off the tiger, him at the golf. Me knew all the bees hotter than sulfur. Me pattern me daddy from when I was a youngster. Real bad man no muggle in a shot. straight jeans, cut off foot pants. Everybody have to ask when me get my clocks. Everybody have to ask when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody have to ask when me get my clocks. Everybody have to ask when me get my clocks. Me tell my man, say, member proper hygiene and don't forget. Bag of sneakers, give your cheesy food. If you know what me know, boy, low the crap. Member pointing mouth to can your tour. Where the desert clock the easy step. To my court that can save your boy. You at the least foot, I will lead to death. Real bad man, I'm ugly in a shot. Straight jeans, cut off foot pants. Everybody have to ask when me get my clocks. Everybody have to ask when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody have to ask when me get my clocks. Everybody have to ask when me get my clocks. And when you get the new clocks, the daddy. I wish you had a daddy no party. Are you alone of the style, the daddy? The queen for England have to love my daddy. And when you get the new clocks, the daddy, I wish you had a daddy no party. Are you alone of the style, the daddy? The queen for England have to love my daddy. Real bad man, no muggle in a shorts. Straight jeans, cut off foot pants. Everybody have to ask when me get my clocks. Everybody have to ask when me get my clocks. The leather hard, the sweat soft. Toothbrush get out the dust fast. Everybody have to ask when me get my clocks. Everybody have to ask when me get my clocks. Real bad man, no muggle in a shorts. Straight jeans, cut off foot pants. Everybody have to ask when me get my clocks. Fi asso mi ghetto clocks, mille da hard, mi sweat soft. Se non l'avrete ancora capito già dall'episodio 0, io sono un malato di dancehall, sono un malato di ragamuffin salentino. E per questo vi faccio sentire un'altra biggest tune from Vibes fucking not nice, he boy run like a wounded dog. Broke you see your regard, don't run. Pull up mi selecta. Not nice, he boy run like a wounded dog. Broke you see and record. Don't run, Baba boy, don't run. The boy dress up like police and I run like thief. Don't run, Baba boy, don't run. Big yard, we are the last man standing. Rifle shot, move the holy bunking. Run on your barber shop and trim. Next year, no do the money I'm sting. We are the last man standing. Fans, me can't believe him run with him bands. Him sing one tune two time. When teacher run out with a million songs. Gaza shoot about the casket. So 2009 no make no more plans. Shoot me, shoot him in front of Adams. Shot by team like Madden. When you just up in a police suit far. Me never seen a policeman go war. Me run out in a full camouflage knapsack full of clip to blood clot SLR. You bring 2,000 man go sting. And I just shot him me bring. But when you see appear things, you run like you see an appear thing. That mean we are the last man standing. Rifle shot, move the goalie bunking. Go on to your barber shop and trim. Next year, no do no more damn sting. We are the last man standing. I'll be a big matic cause a man bring. Me no coward like Bunty and him. Log on for YouTube, watch the damn flame. When me run out Panjam World Gaza, boy confused, don't fool get maga. All I tell me say he kill the barber. The boy stammer when him see me Savama. Me get a care from Vaga from the we make Chinese man skin black like me. Me know where you live, Caldonia. Are your next door neighbor? I mean the one of them pussy the freda. E ora siamo qui per presentarvi una canzone di un ragazzo che come me, amante di questa musica, cerca sempre di dare il suo meglio e appunto di trasmettere alla gente le sue emozioni tramite appunto la musica. Lui è Mad G, a.k.a. Saietta, a.k.a. Just Bang, from Serrano City, un paesino vicino al mio. E questa è una sua canzone che appena me l'ha girata ho detto, oddio, che bomba. Questa è Me Licenzio, registrata al studio di Don Tonino, buonanima, rest in peace, e questa è Me Licenzio. Vaffanculo. se cuando calo no le mando las Semen en un cuarto, mi amigo a las bellas Basta guapo, no que ya la gabo me derayas Uno por soporto, más no daré la medalla Que un gao dure, ven llevar en la batalla Peso de gas, agachaba o de preta Toca, me explico, galo, me echo, me espeta Sol paso de ti, intro una bota Se chenu, tatore, de nanti en la lota Pongo y tu cabillo, yo lo me en un vaso Marcos esto, yo soy tu atrasa en un eso A mí la fatiga, cabe mi aquí en los yesos Sacho cuando calo, manone cuando las Pure que un molazo, mi esestra Sta nel guanti, stacca nelle razze, ci ne scudare santi, inutile capisci, mo c'è sta faccia dannanti, l'impasto, scemo, l'impasto, ma sull'impasto lo carico e lo porto, che allora con l'asso e ti è non tan corto, stai con lo sorriso e ne mannaggia chi da stavo stacco morto e non te supporto. Con qui drogavio io lo mese non lo passo, ma cos'è sto chiuso in già casa e non messo, ami la fatica cape mie che non cesso, saccio quando calo e non è quando lasso, con qui drogavio io, con qui droga me da dietro. Cucchi tu cammè dai tia Cucchi tu cammè dai tia Questo era Maggi A.K.A. Just Bang A.K.A. Saietta This is the music from Serrano But in the Salento there are a lot of music This is Krish from Sud Sound System If you don't understand what I say Ho detto questi sono Krish from Sud Sound System Una delle canzoni che da anni e anni porta avanti quello che è il manifesto della musica reggae insieme a tante altre shun sempre dei nostri amati Sud Sound System. Salento lo richiede sempre chi grisce ogni giorno del chiui se capisce che sta musica tutti ne unisce in Salento lo richiede sempre chi grisce ogni giorno del chiui se capisce che sta musica tutti ne unisce che sta musica tutti ne unisce che quando grisce grisce quello e la sai lo stile ne esce sempre dei chiui che quando grisce grisce quello e la sai torrico del rompato mo' a guai lo stile dello DJ e del vito che facciamo un amore proprio per cenci A casa mi sono lasciata ad un siamo Quando lo facevo noi facciamo quello Basta l'amore per lo ritmo che te scarpa anchino Non tenimo per segno d'oro quando noi cantiamo La musica ne face crescere e capire comunissimo L'orecchio è già mai cano ma lo stile è salentino Fego e se cresce cresce crea sempre bene a mienza noi Giù bene che tieni dentro che è difficile quello dai Ma quando c'è nino dai Non puoi fermi chiui con tutti gli amici tuoi Problemi non ne hai Perché quando punni libero ti pensa sai A cui tu cazzi a cui tu cazzi e non sono lì guai Pensieri e sensazioni che in tutti quanti in giro Con la musica e sono fuori che la sai Che diventa speciale e sempre più speciale Lo stile originale perché è naturale E è speciale e sempre più speciale Te dico naturale perché è fatto con amore Caccia della cosa te ha di capuccia e già non lo sai in giù Ed è l'unica capuccia ogni momento Bueno en la sai, lo stile ne su sempre vecchio i Ca quando chisce, chisce bueno en la sai Torico cammina moi Torna, in giallusa le orecchie sempre chi grisce Ogni giorno del chiui se capisce Ca sta musica tutti ne unisce Ca sta musica tutti ne unisce Ok, questi erano i Sud Sound System Torico e Terron Fabio torna qua Come dicono loro Ma un altro big artist del Salento Perché ne abbiamo nominati tantissimi, ne abbiamo nominato Pasce Calabrino, abbiamo nominato Ponci, abbiamo nominato... abbiamo nominati tutti, ci è stato donando poco, ma manca una persona fondamentale. È proprio lui, è proprio il professore, che nella vita vera fa davvero il professore, infatti insegna alla mia scuola praticamente. Professore, se ci senti, conferma, perché è così. E questa è una collaborazione fatta da Treble Lulu Professore con Ciala di Z Cham. È un po' complicato da dire sinceramente, ma la shun, anzi la traccia, è davvero una bomba. Questo è Treble Lulu Professore, listen. Poi Babylon make we burn them down. Wicked man, wicked man. Fire, friend. Time is over. You see, the fire burn Babylon. Revelation time is here for the wicked man. Them around, you see, the fire burn Babylon. Revelation time is here for the wicked man. Them around. Scappa mena fuci calu tempo ha spicciato. Culi sordi nucati salvezza lu mercato. Nu vidi cance guerra e non si ferma. La fine degli fiacchi Syrian, cielo e terra. Così di fire upon Babylon. The relation time is here for the wiki man. Nuzi, the fire burn Babylon. The relation time is here for the wiki man. No let them come run your mind, they want go fool you. No let them come into you, they want go use you. Rise up your head, no let them come intimidate you. Babylon, them thinking got them system no real. Them no real. Chiedi chi ti crea ansia, affanni, chiedi chi ti vuole giù. Chiedi chi ti voglia tutti i soldi perché non ti risvegli più. Te ne parti, trovi figli e te li porti via da qui. Te ne scappi, non c'è sordi, ma se te scanni, guffati. Se non te pare assurdo, muori. Capisci che succede in te. C'è lui, così, mi fai a buon Babylon. Sometimes time is here for the wicked man. Them a run, you see, the fire burn Babylon. Sometimes time is here for the wicked man. Ok, si è fatta pura, direbbe Don Rico. Ma per chiudere questo episodio voglio un'altra volta ringraziare Firebomb Babylon, Mardok Selecta, tutti i componenti di quella che è la Piratae Radio. Ancora una volta, se controllate sul mio profilo Instagram, Warvo, due trattini bassi, o su Facebook col mio nome di battesimo, ovvero Giacomo Surdo, o semplicemente andando su SoundCloud, su YouTube, su quasi tutte le piattaforme musicali ci potete trovare, anche su Mixcloud. Ora collegatevi su Facebook, seguite il mio profilo, quello di Piratae Radio, e rimanete sempre collegati e sempre connessi alle dirette, perché potrete risentire gli episodi precedenti sul nostro archivio, entrare nel nostro canale Telegram ed essere direttamente a contatto con noi tramite messaggi, e avere anche il link per quella che è la diretta in qualsiasi momento voi la vogliate ascoltare. Quindi avete un album, uno stereotto, praticamente uno stereo per voi 24/7, quindi continuate a seguire Piratae Radio. Big up Mardok Selecta, big up Otello, big up Pietro Testa, big up di Wall Massi, big up la gente che ci sostiene. Questa è l'ultima tune di Salento Connection, è stato un piacere. Yeah! Ricordo c'è bella che era sta terra quando lì ne curava di noi. C'era meno denaro e pure meno miseria. Di Salento cosa io non c'ho più. Io me ricordo c'è bella che era sta terra quando lì pagioni eravamo noi. Ma pure sta situazione in fondo te ne na fine della festa che si estinguerà. Nati in una terra d'ulusule, scarfa le pietre come un lucore. Siamo noi quindi pronti a lottare contro il giacqua e porta solo dolore. Sappiamo che non c'è bene valore, ma non be qui dove ne stati a dare. Per questo vogliamo cantare, la terra noscia non sa toccare. Bella a tutti, è stato un piacere enorme essere qui su Piratae Radio. Ci vediamo il prossimo giovedì dalle 3:30 alle 5:30. DJ Warvo ai controlli con un sacco di sorprese. Bless up!